Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi, start-upper anche seriali nell'e-commerce, per crescere da 0 a X milioni in poco tempo, per raggiungere chiunque, dovunque, per fare da ponte tra Italia ed estero, per aiutare se stessi e gli altri ad aumentare le vendite. La rete supera i confini e li moltiplica. Le start-up di oggi ci insegnano quali sono gli ingredienti che portano a battere la crisi, qual è l'aiuto migliore, se family and friends, business angel, fondi istituzionali e così via. Iniziamo da Luca Sepe, il papà dell'e-commerce made in Italy, fondatore di numerose startup famose. Nel 1983 Sepe portava nell'Italia del drive-in e del Commodore 64 Pony Express, la prima società italiana di moto consegne urgenti in città. Nel 1990, quando Nannini e Bennato cantavano Un'estate italiana, Sepe lanciava il primo servizio di food delivery cinese con China Cena. Nel 1999 arriva la sua Mr. Price, il primo servizio di e-commerce service provider in outsourcing in Italia. Poi fonda Giacalà nel 2007 e infine nel 2010 inizia a lavorare un altro ambizioso progetto, Shaa. Shaa è una web company specializzata nello sviluppo, nella produzione e nell'erogazione di video interattivi per mezzo di un tool proprietario. Da ottobre 2013 è effettivamente operativa. L'idea è quella di racchiudere in un video tutto il percorso d'acquisto, cioè dalla raccolta di informazioni fino al click and buy. Luca Sepe racconta la sua esperienza di startup per seriale, scelto sia da fondi istituzionali, in passato Mr. Price con Kiwi, sia oggi da Business Angel. Sentiamo. L'idea è quella di trasformare i video da piatti a interattivi, video e adesso anche le foto. In questo senso io sto vedendo la presentazione di un prodotto, di un servizio via video, sicuramente resto più interessato rispetto a leggere magari una scheda prodotto o uno scritto. Se però non ho call to action, cioè richiami che mi fanno dire oh che bello quell'oggetto, lo voglio comprare, il video finisce e poi me lo devo andare a cercare sul web. Ecco, quello che facciamo noi è esattamente questo, facciamo in modo che mentre tu vedi un prodotto o un servizio che ti interessa e ti incuriosisce, puoi cliccare, si ferma il video, si apre una scheda che ti spiega appunto come è fatto il prodotto, ti dà il prezzo e ti dà la possibilità di comprarlo praticamente in diretta. Rispetto a un banner è un pelino più evoluta la piattaforma, nel senso che permette di fare tantissime cose, tutto intorno al player. In sostanza, più che un banner diventa il video, può diventare proprio un mini sito. Se tu hai un video che presenta un'automobile, all'interno di questo video puoi praticamente costruire un piccolo sito dove tu cliccando su dei bottoni ti si aprono delle schede che ti spiegano come è fatto, non so, le caratteristiche del motore, degli interni, si possono aprire altri video all'interno che fanno vedere, non so, una prova dell'automobile. Da cosa nasce la tua esperienza di startupparo, diciamo, seriale, anzi in tempi non sospetti quando non esisteva il termine? Nasce nell'83 in modo del tutto così incidentale, eravamo insieme al mio amico e socio Paolo Vittadini a Londra. Abbiamo visto dei ragazzi che giravano in moto con dei pettorali e una radio appesa al collo, ci siamo domandati cosa stessero facendo, abbiamo anche lì i casi della vita, chiesto al taxista cosa fossero, lui aveva fatto prima del taxista il pony, per cui ci ha spiegato a fondo com'era il servizio. E ci siamo guardati e abbiamo detto ma cosa siamo qua a fare, che tanto l'inglese siamo delle bestie, siamo e bestie rimarremo. No, non è vero, perché poi un po' l'abbiamo imparato. E quindi siamo tornati a casa, eravamo a Londra, siamo tornati a Milano e abbiamo fatto partire questa idea, perché ovviamente ha avuto successo perché era proprio un'esigenza di quel momento. Dopo la Pony Express c'è stato il China Cena, che era sempre consegne, sempre a domicilio, in questo caso di pranzi e cene cinesi, quindi è stato nell'87 direi il primo food delivery service in Italia, direi. L'avevamo fatto a Milano e Roma. L'avete fatto da soli? Vi ha aiutato qualcuno? Le prime ci hanno aiutato il babbo e la mamma, e questo devo dire una bella fortuna. Si parla di pochi soldi, per far partire il Pony Express sono bastati veramente pochi soldi. Le ultime invece, le ultime due in particolare, Mr. Price, che era un sito di commercio elettronico direi molto famoso in Italia, E quest'ultima SHA invece di solito funziona così: io parto con il mio gruzzoletto che ho messo via, me lo gioco, vado a tartufare il mercato, capire se prima di tutto a costruire nella fattispecie di SHA e anche di Mr. Price l'oggetto tecnologico, testarlo, vedere se funziona prima di andare in giro a far brutte figure. Dopodiché si testa un attimo il mercato per vedere se risponde, e a quel punto, se c'è un buon profumo, si va in giro a cercare. Nella mia esperienza è meglio cercare all'inizio dei business angel, perché hanno esigenze un pochino più, tra virgolette, umane. Giustamente il fondo è un fondo, di solito sono fondi chiusi che a loro volta hanno dietro di loro degli investitori istituzionali, i fondi giustamente devono fare delle performance mirabolanti in poco tempo, e quindi non sempre quando si parte con un'idea nuova in un paese come l'Italia quest'idea esplode dopo un anno o due, spesso ce ne vogliono 3, 4, 5. E quindi è meglio avere all'inizio dei business angel, fare un altro pezzo di percorso, e poi di nuovo, se l'idea raggiunge quei risultati, quegli obiettivi che ti sei posto, a quel punto lì, per dargli il calcio finale e farla possibilmente esplodere, e lì ci vogliono magari capitali importanti, e quindi bisogna fare ricorso, direi, a fondi di investimento istituzionali. Come guadagnate? Cioè, qual è il vostro modello di business? Qualche cifra, qualche numero? Sostanzialmente noi diamo questo tool tecnologico che permette appunto di trasformare i video da piatti interattivi. Noi andiamo sostanzialmente dalle agenzie, dalle digital, quelle che curano la parte web per le grandi aziende. Con in mano, diciamo, questo strumento vanno a proporre a queste aziende e gli fanno un progetto dove loro ci mettono sopra giustamente la creatività. Ecco, il mercato, una previsione da chi lo vede da tempo, cioè dai tempi del drive-in adesso. Alcune cose sono diventate più difficili, magari altre più facili da fare. Il mercato, vabbè, non è che devo dirlo io che sia difficile il mercato italiano, però è anche vero che sulle questioni riguardanti il web in generale, diciamo che c'è un'attenzione molto forte. Dopodiché i soldi in giro non ce ne sono tantissimi, ma le aziende sicuramente si stanno concentrando, stanno capendo che lo strumento è rilevante, quantomeno nell'ambito della comunicazione. Quindi io sono inevitabilmente positivo. Branddistribution.com è PMI con 25 dipendenti, italiana di San Mauro Torinese, primo sito di e-commerce B2B di accessori e abbigliamento firmato in Europa. Distribuisce in 170 mercati e ha due brand propri, Anna Lublin e Made in Italia. Ha annunciato di recente l'ingresso nel mercato cinese grazie all'accordo con Xiu.com, sito di moda e lusso, e ha superato quota 70.000 resellers nel mondo che attualmente sono iscritti alla newsletter del sito. In 6 anni il fatturato di Brand Distribution è cresciuto da 0 a 20 milioni di euro. Stupefacente, il target di clientela sono i retailer italiani e internazionali, i grandi siti di vendite private nel mondo, Yux, Vente Privé, Privalia, Buy VIP, Department Store, Power Seller di eBay e i piccoli siti di e-commerce. Parliamo complicato e Angelo Muratore, presidente di branddistribution.com, ci spiega tutta la sua avventura pezzo per pezzo. L'idea nasce nel 2008 da Carlo Tafuri. Carlo Tafuri è il COO, quindi il Chief Operating Officer della società, e nasce dopo aver attentamente studiato, diciamo, il mondo dell'e-commerce allo stato dell'arte nel 2008, e lui capisce che c'è uno spazio di crescita incredibile e che, arrivando lui da un'esperienza nel mondo degli stock, avrebbe voluto mettere in piedi un'azienda nell'area dell'e-commerce, che però non decide di collocare nel mondo del B2C, che era un mondo di fatto che era quello che si stava sviluppando di più ed era quello più affollato, con grande concorrenza e con, diciamo, grandissimi sforzi economici per arrivare ad avere dei risultati appena decenti. Abbiamo capito che il B2C non era per noi, era troppo affollato, decidiamo di entrare nel mondo B2B. B2B e, lo diciamo per tutti, è business to business, cioè alle aziende. È, ecco, il mondo, diciamo, che mette in contatto appunto a livello commerciale le aziende con altre aziende. In quanto tempo siete riusciti a realizzare questa idea? Diciamo, qual è il vantaggio, diciamo, di operare sulla rete piuttosto che quello di operare sul territorio? È che se tu sai utilizzare bene lo strumento della comunicazione online, tu riesci ad intercettare una domanda che arriva da paesi che diciamo non potresti raggiungere diversamente. Noi oggi di fatto esportiamo in 170 paesi e abbiamo 70.000 rivenditori iscritti, quindi noi attraverso Google, attraverso le armi della comunicazione digitale, siamo riusciti ad intercettare la domanda di tantissimi rivenditori in paesi che tipicamente non potevamo raggiungere. L'azienda ha avuto un'enorme crescita, però qualcuno vi ha aiutato? No, oppure la svolta l'avete fatta da voi? Cioè i capitali sono family and relatives oppure... Esattamente, family and friends. Ecco, friends anche. Esattamente, family and friends, amici e famiglia. L'azienda non ha avuto un euro di debito perché in quel momento era meglio crescere in questa maniera. Infatti non abbiamo avuto una crescita accelerata, nel senso che abbiamo, perché il nostro modello implica, diciamo, per l'80% l'acquisto del prodotto che vendiamo, no? Per cui più prodotto compri, più prodotto in teoria vendi. E avendo noi la possibilità di vendere su più mercati e avendo un magazzino che ruota da 4 a 5 volte l'anno, riusciamo effettivamente a far girare bene il nostro denaro. Il motivo per cui siamo così ottimisti è innanzitutto una grande crescita del trend dell'e-commerce a livello internazionale. Che cosa intendo? Intendo che oggi, se tu sei un negozio fisico e non hai la forza di comprare grosse quantitativi di prodotti dalle aziende appunto che rappresentano i marchi, però hai, diciamo, una clientela che vuole comprare e hai bisogno di non fare troppo magazzino perché non vuoi rischiare, tu trovi in brand distribution il partner ideale, il tuo punto di riferimento, perché noi ti diamo brand conosciuti, ti diamo la velocità della consegna in 2 o 3 giorni grazie a una partnership con DHL, a dei prezzi estremamente vantaggiosi, con un minimo di acquisto anche di 200 euro. Quindi vi rivolgete ai grandissimi e ai piccolissimi? Noi ci rivolgiamo ai grandi siti di e-commerce a livello mondiale, quindi Amazon, Yux, Vanprivé, Privalia, Zalando, ma soprattutto ci rivolgiamo ai piccoli negozi nel mondo. Parliamo quindi della Cina. La Cina, esatto, è stato un esempio di vendita a un grande sito di vendite private che è questo Xiu. Quindi noi non eravamo ancora entrati nel mercato cinese e grazie a questo sito, che appunto è uno dei leader in Cina con milioni e milioni di iscritti, abbiamo fatto le vendite ad esempio di 2 dei nostri prodotti di cui abbiamo delle licenze esclusive. E ora, startupper, crescete e moltiplicatevi. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre, Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog su www.radio24.it, dove potete anche fare il download. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci di Piccola Impresa, idee anticrisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Un saluto e a sabato prossimo.